Adesso voglio unirmi a Tartaglia. Ok. Vuoi perché non ne ho, non devi chiederlo a me, perché non lo so. Voglio nome, ecco qui, ma sulla lapide con sopra scritto rest in peace. Vuoi perché non ne ho, non devi chiederlo a me, perché non lo so. Voglio nome, ecco qui, ma sulla lapide con sopra scritto rest in peace. Mi hanno scambiato con un altro della mia città, hanno scordato e vicinato chi sa fare il rap. Mi hanno chiamato come un altro, ma non è così, che vale un quarto esagerato di ogni mio CT. Io sono quello di My Split Front Back My Money, sono original QG, Get Out Zempari. Ogni show ho fatto il botto tra sexy teens, me ne foto se manco di sex appeal. Io ho preso show con i miei homie Blata Fam, noi ho keyboard con il flow, vi fumiamo come blend. Ricordi Nara di un disesi QG, che la cantavi pure tu nelle strade di Caravi. Sono qui al mio funerale insieme a chi mi odia, senza me di questo nome resterà la storia. Perché la gloria me la leggi sugli occhi, per evitare intoppi lascia il mio nome, basta e farlocchi. Vuoi perché non ne ho, non devi chiederlo a me, perché non lo so. Voglio nome, ecco qui, ma sulla lapide con sopra scritto rest in peace. Vuoi perché non ne ho, non devi chiederlo a me, perché non lo so. Voglio nome, ecco qui, ma sulla lapide con sopra scritto rest in peace. This is my motherfucking name, e senza il mio viso non conto un cazzo. Io suonavo sopra il tuo palco, io sfondavo dentro il tuo impianto, e tu mi scambi pure per un altro, sei un pacco. No, io che sono quello di Teso Show, ricordi bro, mentre cantavo Mo Money Mo. Tu la leggenda, io la star, nei tuoi club che ho trascritto la storia dalla Z fino alla A. M'hai spostato di qui, mi son fatto i miei fan, ho parlato alle teens dandogli colpi di rap, e non scordarlo mai, proprio come la song, perché di Teso ce n'è uno e lo sanno fino a Hong Kong. Senti me, MP3, con gli MC La Fossa, Rusta, Bliri, Chris, Bulgat, Dish, Rabi, Bacaman, Mauri, Joy, Zipan, Padre Piglio, perché io sono il figlio del Lil Pape. Vuoi perché non ne ho, non devi chiederlo a me, perché non lo so. Voglio nome, ecco qui, ma sulla lapide con sopra scritto rest in peace. Vuoi perché non ne ho, non devi chiederlo a me, perché non lo so. Voglio nome, ecco qui, ma sulla lapide con sopra scritto rest. Mayday, mayday, sono i miei, sono white cocaine. Voglio che mi metti in play, se non morirei. Non so nemmeno cosa vorrei. Immatricolato in fronte con un 666. 1, 2, 3, 3 and 2, 1. Se senti, chi motherfucker via se ne va. Ma se vuoi drinking in a sick come Tupac, non lasciate i miei enemies a colpi di track. I'll break you down, I'll break you down, down. I'll break you down, I'll break you down. Ah, mi dispiace, ma io so io, e voi non siete un cazzo.